24 mattino estate con Irene Zerbini. Nel senso che siamo arrivati al numero 24 anche in agosto. Buona giornata a tutti, a chi guida, a chi ci sta seguendo dal lavoro, dagli ospedali, a chi ci sta seguendo da casa. Oggi andremo come al solito a onorare i nostri appuntamenti, tra poco la lettura dei giornali, poi avremo l'incontro con i corrispondenti stranieri dopo il GR delle 8, Carmen Cordova, corrispondente in Italia per il settimanale colombiano La Semagna, oggi sarà con noi, e alle 8:30 il dibattito. Come combattere l'allergia alla legalità che sembra sia dilagata in Italia. Oggi il nostro ospite sarà Gherardo Colombo. Intanto saluto Lionello Mancini per la rassegna stampa. Buongiorno. Buongiorno Irene. Gherardo Colombo è una persona veramente squisita e competente. Siamo anche amici. E non capisco come hai fatto a beccarlo a quest'ora di mattina. Beh, perché ci tiene a parlare di Pizzighettone. Tu sai cosa è successo a Pizzighettone, immagino. Pizzighettone? No. Credo che insieme a Londra, Parigi e New York dovrebbe costituire così uno dei punti cardine. Pizzighettone in provincia di Cremona. A Pizzighettone... Tra l'altro sì, Gherardo Colombo riusciamo ad averlo a quest'ora del mattino, ma il sindaco di Pizzighettone no, perché è troppo impegnata. È impegnata in riunioni, ci sono 6.500 abitanti, quindi può succedere di tutto. Ebbene, hanno raccolto delle firme, hanno fatto una petizione a Pizzighettone, sì, per cacciare il vigile del paese perché fa troppe multe. Cioè, come ci hanno detto, gli abitanti si serve della legge, si trincera dietro la legge, e quindi, essendo uno dalla multa facile, merita l'esilio, insomma. Ho capito, ma Gherardo cosa c'entra con Pizzighettone? Gherardo Colombo, forse non lo sai, ma occupa gran parte del suo tempo a parlare nelle scuole. Certo che lo so. Proprio di educazione alla legalità, educazione alle regole, perché da questo episodio siamo partiti per riflettere sull'allergia un po' diffusa degli italiani alla legalità, che non fanno petizioni contro la corruzione, i raccomandati e altre situazioni che caratterizzano la vita locale anche dei piccoli comuni, ma contro il vigile che fa troppe multe siamo lì si mobilita. Certo. No, Gherardo Colombo ha una lunga carriera di magistrato alle spalle, alla procura di Milano prima, come ha fatto delle inchieste importantissime, poi è andato in Cassazione, poi direi 5 anni fa ha detto basta, la Cassazione è un sentenzificio, doveva scrivere in fretta 50 sentenze al mese, una cosa folle, basta, si è dimesso dalla magistratura e ha cominciato a fare questi giri. Credo che abbia un'agenda fittissima ancora per i prossimi 2 anni, cioè va di anno in anno. Infatti per questo sono stupito e contento che sia questa mattina in radio, perché non è facile. E probabilmente ha trovato in questa attività quell'anima, quel senso della legge come qualcosa che pulsa, che è vitale, che forse in Cassazione gli mancava. Adesso stiamo facendo degli azzardi, ma incontrarsi coi bambini, coi ragazzi, certo, deve essere qualcosa che dà grandissimi stimoli. E infatti ha scritto anche dei libri insieme a una scrittrice, mi pare si chiami Sarfatti, non vorrei sbagliare, proprio specialista di libri per bambini, come spiegare le regole e la legalità ai bambini. Beh, insomma, un'attività importante, non credo. Non so se si fa, ma salutalo. Un'attività importantissima. E potrete partecipare anche voi all'800 24 00 24 a questa discussione per i messaggi SMS 349 238 6666. La rassegna stampa. In primo piano. Buongiorno. E dunque, Lionello, scusa, ti ho tolto la parola, ma in primo piano oggi cosa troviamo? Ancora i due temi che hanno accompagnato le mie due rassegne stampa precedenti, ovvero la Libia, perché la caduta è ovviamente ormai, diciamo, in pieno corso, ma è un processo che non si è ancora esaurito, e la manovra d'estate, perché ieri è sbarcata alla Commissione Bilancio del Senato, si cominciano ad avere dei dettagli, è tutto anche questo in piena evoluzione, quindi ci sono dei dettagli che vale la pena di approfondire anche attraverso i giornali. Ci sentiamo più tardi, ti seguiamo fino in fondo. Eccoci dunque, allora vorrei cominciare proprio dalla manovra, perché penso che comunque sia l'argomento che, per quanto quello che accade in Libia sia di assoluto interesse e vedremo degli aspetti anche abbastanza particolari, ma la manovra è di assolutissimo interesse perché ci riguarderà tutti. E ieri sono accadute due cose. La prima è che la Commissione Bilancio del Senato ha incardinato la discussione sul testo del governo, e la seconda è che il Partito Democratico ha presentato le sue 10 proposte, che poi vedremo molto velocemente, e che comunque vale la pena, insomma, che dovrebbero andare a far parte della manovra, perché questa volta pare che non ci sia aria di voto di fiducia, ovvero di un testo blindato e la maggioranza che vince, ma di una integrazione tra diversi punti di vista. Ci sono anche delle reazioni a queste vicende economiche, in particolare la CGIL, che ha dichiarato lo sciopero generale, e anche si torna a parlare di un possibile condono. Di questo dunque parla il Sole 24 Ore innanzitutto. Io comincio sempre dal Sole, non perché io sia un giornalista del Sole, ma perché, come forse avrete ormai visto se avete seguito i consigli di chi fa questa rassegna stampa, leggere il Sole dà una serie di informazioni in questo periodo che altri giornali obiettivamente si sforzano di dare ma non hanno, anche perché molti giornalisti del Sole sono stati concentrati su questa vicenda, così come in altri giornali molti giornalisti vengono concentrati sulle vicende della politica piuttosto che sulla politica internazionale. Allora, manovra. Ora spunta la sanatoria fiscale. Questo è un titolo non di apertura del giornale, perché l'apertura è dedicata alle borse e dice che le banche, ovvero i titoli bancari, sono tornati sotto tiro, ma è il titolo principale dopo quello di apertura. Manovra, ora spunta la sanatoria fiscale. Ancora aperta la partita sulle pensioni. La CGIL dichiara lo sciopero generale il 6 settembre. Iniziato l'esame in commissione al Senato, allo studio un concordato o un condono, mentre si lavora l'aumento della soglia per la super IRPEF. La super IRPEF è un altro modo di chiamare il contributo di solidarietà che riguarderebbe i redditi sopra i 90.000 euro. Dice l'articolo, è partito ieri l'esame al Senato della manovra bis. Fra le ipotesi di modifica super IRPEF, solo oltre i 150.000 euro agganciata al quoziente familiare, aumento dell'IVA e condono fiscale o concordato di massa. Partita aperta sulle pensioni, la CGIL proclama per il 6 settembre lo sciopero generale. Appello del presidente della FIAT John Elkann, l'Italia sia credibile. Vorrei leggervi su questo, qui già abbiamo un insieme di contenuti che vengono commentati in un breve corsivo di prima pagina siglato AO, che poi sarebbe Alberto Orioli, il vice direttore del Sole. E il corsivo si intitola Il doppio errore. Scrive Orioli: una sanatoria fiscale e uno sciopero generale, due modi di reagire alla crisi che non avremmo voluto raccontare. Il primo è un'ipotesi che già circola negli ambienti della maggioranza. Il secondo è la scelta della CGIL per il 6 settembre. Certo, con un condono più o meno mascherato, il governo fa cassa con il premio ai disonesti. Nulla di strutturale nei conti, come chiedono il buonsenso e il mercato. Il prezzo è la conferma dell'Italia patria dei furbi fiscali, quando servirebbe consolidare la lotta all'evasione. Con lo sciopero generale, la CGIL rafforza l'identità conflittuale, troverà più rabbia da urlare che soluzioni utili. Quelle vengono dalla fatica della concertazione. Condono e sciopero, due idee d'Italia fatte apposta per confliggere che, paradossalmente, si puntellano a vicenda. Questo dunque il commento sulle scelte che sta per fare la maggioranza a proposito di un ennesimo condono. Quindi chi non ha pagato fino adesso, chi ha evaso, ha un'altra occasione per ridere alle spalle di chi invece le tasse le ha sempre dovute pagare, e lo sciopero indetto dalla CGIL, lo sciopero generale per il 6 settembre. Sempre dalla copertina del Sole, borse, le banche tornano sotto tiro, vi dicevo prima, era il titolo di apertura. Consob frena le agenzie USA in Europa, al vertice di Standard & Poor's un manager Citigroup. C'è stato un cambio di vertice a questa agenzia di rating. Ai massimi i CDS per i finanziari del vecchio continente, piazza affari meno 1%, rally a Wall Street. Rally significa che la borsa ha corso. All'evasione fiscale, abbiamo accennato adesso a questa ipotesi di condono, all'evasione fiscale sono dedicati molti servizi dentro nelle pagine interne del giornale, e come sempre, l'ho detto anche ieri, voglio ripeterlo perché è un concetto secondo me importante. Se anche le cose in questo momento non sono chiare, sono in divenire, sono complicate, per capirle bisogna sforzarsi un po', cioè di facile o di gratis non c'è nulla. Quindi allora, per esempio, a pagina 3 abbiamo un seguito alla proposta fatta ieri da Prodi e Quadrio Curzio, forse ricordate, o forse l'avete poi letta sul Sole 24 Ore, ma è una proposta di creare un fondo da 3.000 miliardi che potrebbe, diciamo così, innescare finanziamenti per 9.000 miliardi da utilizzare attraverso le riserve auree delle banche centrali dei paesi dell'Unione Monetaria, i paesi dell'euro, e quindi poter arrivare, diciamo, non con affanno all'ultimo momento, ma a intervenire sui paesi che sono in difficoltà. Quindi l'Europa apre gli euro bond, questa è l'apertura della pagina 3, la Commissione, il piano pronto per ottobre, cambiamenti indispensabili per rafforzare la zona euro, è necessario dare più poteri alla Unione Europea e superare l'idea di Stato-Nazione. Sì, bipartisan al progetto dell'ex premier, per esempio Amato, Giuliano Amato, l'ex premier che dice attueremo questa idea insieme ai tedeschi. È stata poi sentita una giovane economista, Benedicta Marzinotto, della Bruegel dell'Università di Udine, che dice funzionerebbe meglio del fondo salva stati. Salva stati, appunto, è quel concetto che dà l'idea di una cosa di emergenza. A pagina 5 le parole per capire l'Eurobond, un dizionario che spiega alcune dei termini più usati per in questo, diciamo, rispetto a questo progetto. E c'è anche, come tutti i dizionari del sole, ci sono anche i semaforini, cioè il bianco, il verde, rosso e giallo a seconda della difficoltà dell'attuazione della voce che viene considerata dal dizionario. E su questa cosa dell'Eurobond, a parte due semaforini gialli di, diciamo, difficoltà media, dove si parla delle parole riserva aurea, che è un termine abbastanza conosciuto, e BCE, Banca Centrale, beh, tutti gli altri sono dei termini che richiedono un livello di attenzione alto, quindi il semaforino è rosso. Evasione fiscale, dicevo prima, evasione fiscale, abbiamo una graduatoria piuttosto impressionante che viene riportata a pagina 13 del Sole 24 Ore. Ebbene, in Italia l'evasione, scrive Marco Bellinazzo, è al 22% e costa quasi 29 miliardi, al quarto posto nella classifica percentuale delle infedeltà. E abbiamo qui un elenco dei paesi europei in cui vediamo che l'evasione fiscale in Italia è di 29.589 miliardi. E chissà perché dicono quasi 29,5 miliardi, seguita, ah no, chiedo scusa, ecco perché, questa è la Gran Bretagna, 29 miliardi e mezzo, seguita dall'Italia 28,8 miliardi, dalla Germania 18 miliardi e 6 e dalla Francia 10 miliardi e 7, ma queste cifre rispetto al gettito teorico sono differenti, ovviamente, perché sono paesi che hanno un gettito differente. Comunque una classifica molto interessante e anche molto istruttiva. E nelle pagine successive ancora, l'antievasione corregge il tiro, di nuovo una puntata del dizionario in cui vengono trattate le parole assegni, congruità, e la contanti, contributi di solidarietà, libretti al portatore, professionisti e fatture, anche qui con i semaforini, anche qui per spiegare di cosa si sta parlando. Bene, a pagina 23 del Sole troviamo invece una pagina di lettura, I Love Italy, l'orgoglio di essere italiano, un articolo molto bello di Gianni Toniolo, che è uno storico dell'economia. Ebbene, Gianni Toniolo ha tenuto quest'estate una lezione alla futura classe dirigente meridionale, la lezione per l'orientamento della normale, la normale di Pisa, a giovani meridionali di bravura straordinaria, nella classe dirigente del futuro. E dice Gianni Toniolo, una vena di tristezza nei colloqui individuali. Le domande più frequenti sono sui posti migliori all'estero, dove specializzarsi e trovare lavoro, capito? All'estero. E la competenza è ancora un sommario di questo articolo molto bello, è molto lungo, quindi non ve lo leggo perché mi dispiace sceglierne un pezzo un po' a caso. È comunque l'undicesima puntata della serie L'orgoglio di essere italiano. E ci sono i due elenchi di opposti, cioè quali sono i punti di orgoglio per questi giovani del sud, quali sono gli elementi di vergogna. Questi appunto ve li leggo. Elementi di orgoglio per questi giovani meridionali rilevati da questi colloqui durante questa lezione in una masseria sulla Sila è avvenuta. Orgoglio: il funzionamento della sanità pubblica, in particolare degli ospedali, anche in città minori, almeno nel centro-nord del paese. Secondo punto di orgoglio: la scuola elementare italiana. Terzo: il successo delle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Quarto: l'impegno appassionato e silenzioso del volontariato. 5. L'intelligenza e la cultura con la quale sono stati ristrutturati e rivitalizzati tanti centri storici nel nostro mezzogiorno e la cura con la quale sono mantenuti. Un esempio fra tutti, Matera. Quali sono i punti, gli elementi di vergogna? Gli elementi di vergogna sono il fatto che Pannella debba attuare uno sciopero della fame per attirare l'attenzione sulla situazione disumana delle carceri. Secondo punto di vergogna, secondo questi giovani meridionali, le statistiche sul lavoro che indicano come il 29% dei giovani italiani sono sotto i 30 anni siano inoccupati, lo spreco di una generazione intera. Terzo, le stime che indicano un'evasione fiscale più che doppia rispetto alla media degli altri paesi europei. Vedete che ritorna questo tema dell'evasione. Quarto punto di vergogna, gli amici stranieri che mi dicono come l'Italia sia l'unico paese europeo nel quale si sentono sempre in pericolo di essere imbrogliati e gli indici di percezione di onestà che ci pongono molto in fondo alle classifiche internazionali. Ultimo punto di vergogna indicato da questi ragazzi, la lunghezza estenuante delle cause civili, la giustizia negata e il peso enorme per l'economia. In primo piano. Proseguiamo la lettura dei giornali, passiamo alla Repubblica che apre con i ribelli nel bunker di Gheddafi, ma è un mistero sul Rais, combatterò fino alla fine. Queste sono le parole che ha pronunciato ieri Gheddafi. Paura nell'hotel dei giornalisti, perché c'è un albergo che viene tenuto sotto tiro dai lealisti, ovvero dai seguaci di Gheddafi. Oggi la Repubblica offre anche per gli appassionati una guida al campionato squadra per squadra di 20 pagine, ma soprattutto è in edicola con Repubblica il libro di Giuseppe D'Avanzo, Inchiesta sul potere, con tutte le maggiori inchieste del giornalista morto il 30 luglio. Da Repubblica vorrei proprio restare su questo tema della Libia. Ovviamente ne parlano tutti i giornali con diversi aspetti. E in questo ho trovato un articolo interessante di Adriano Sofri che ripropone una questione che ha sempre posto, anche quando si parlava della Bosnia piuttosto che di interventi in Ruanda, eccetera. Cioè il problema se sia giusto o se sia necessario avere una polizia internazionale. Scrive Sofri su Repubblica: quasi 6 mesi, sembravano senza fine e ora passano per brevi e rapidi. In soli 6 mesi, dice Obama, si è abbattuto un regime che durava da 41 anni. In questi mesi ciascuno dei protagonisti occidentali ha vacillato, ma soprattutto per le pressioni interne. A quel punto una ritirata che si rassegnasse alla permanenza di Gheddafi al potere, anche solo della Tripolitania, sarebbe stata catastrofica. Per Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti, per le Nazioni Unite e soprattutto per la gente che si era ribellata. Scrive ancora Sofri, l'articolo è molto lungo, ma la questione che pone è questa. Bisognerà ammettere che il progetto, il sogno, se preferite, di una polizia internazionale esce molto contraddittoriamente da questa prova. L'autorizzazione del Consiglio di sicurezza è stata largamente oltrepassata dall'azione degli alleati maggiori e della NATO. La protezione dei civili è diventata l'abbattimento del regime. La contraddizione è largamente inevitabile nel sistema di relazioni internazionali. E più avanti si chiede: Che cosa sarebbe accaduto della popolazione indifesa di una grande città come Bengasi di lì a qualche ora, ovvero dopo che erano iniziate la ribellione? Sarebbe accaduto o no quello che Gheddafi e i suoi ferocemente giuravano? Non si sarebbe parlato di Srebrenica se Srebrenica fosse stata prevenuta, né del Ruanda se si fosse impedito il meticoloso, indisturbato sterminio. Ecco dunque che ripropone questa sua domanda che per la verità resta senza risposta ogni volta che un avvenimento internazionale richiede un intervento internazionale di più paesi, e quindi la risposta per la verità ancora non c'è, le contraddizioni sono ancora tante. A pagina 7 di Repubblica c'è un breve scritto di Fabio Mini, un ex generale, e si intitola Taccuino strategico. Anche questo l'ho trovato interessante, molto più di altri articoli di cui pure sono pieni i giornali. Scrive Mini: la battaglia di Tripoli si sta sviluppando secondo uno schema drammaticamente noto nelle guerre civili o nelle rivoluzioni senza capi e senza capo né coda. La città è invasa da truppe raffazzonate di miliziani ribelli. I primi devono salvare la pelle, i secondi non hanno una strategia coordinata, usano armi di circostanza sottratte ai depositi del regime e vanno avanti a naso. C'è un solo scopo comune: eliminare Gheddafi, fisicamente, platealmente, entusiasticamente, a prescindere dalle direttive emanate dai capi che sono costretti a sentire i consiglieri stranieri inspiegabilmente cauti. Non ci sono ribelli abituati alla caccia nei cunicoli, dove è rinchiuso Gheddafi, così come non sanno combattere nei centri abitati. Ci sono le forze speciali straniere che sono anche addestrate a questo, ma tutte le potenze coinvolte nell'operazione non vogliono ammettere di averle già sul terreno. Chissà perché. Ci sono le armi speciali, come le bombe termobariche, che infilate in una presa d'aria vomitano combustibile che esplode ad alta pressione. Ci sono le armi ad onda sonora e il fosforo bianco, che prima ti avvelena e poi ti cucina al forno. Ma Gheddafi deve essere preso ed esibito. E allora nel labirinto sotterraneo ci sono già miliziani che portano Gheddafi in salvo e forze speciali che lo stanno cercando per proteggerlo dai ribelli. Per processarlo forse bisognerà aspettare che qualcuno lo tradisca e lo consegni, possibilmente barbuto, imbottito di tranquillanti e aggrappato a una borsa piena di dollari, come Saddam. Quindi un quadro per certi versi agghiacciante e interessante del tipo di armi che vengono usate, dall'altra anticipa una dinamica che forse molti di noi ricorderanno è avvenuta con la presa appunto di Saddam Hussein in Iraq. Sempre su Repubblica sono ampi articoli anche qui sullo sciopero della CGIL il 6 settembre, decalogo del PD, tassare gli scudati, ma lo vedremo sul Corriere della Sera. Mentre Berlusconi, c'è un titolo in cui si parla del grande gelo sceso tra Berlusconi nei confronti di Bossi perché, virgolette, avrebbe detto Berlusconi, non controlla più i suoi uomini. Il senatore, lui, e cioè Berlusconi, dice la sua, io la mia. Attesa per il vertice, l'incontro del lunedì, che dovrebbe essere appunto lunedì prossimo, forse verrà anticipato per stringere i tempi. Ecco, quindi questo ho voluto leggere su Repubblica. Dicevo, è un tema che viene trattato anche su altri giornali. Restiamo un momento ancora sulla manovra, perché il Corriere della Sera, a pagina 17, illustra con maggior chiarezza di altri giornali i 10 punti che vengono proposti dai democratici per la manovra. Vi leggo solamente i titoli, ovviamente. 1. Intervenire sui costi della politica dimezzando i parlamentari e le province. 2. Dismissione di immobili e frequenze, quindi gli immobili, diciamo, demaniali. 3. Via alle liberalizzazioni, politiche industriali e ricerca. Un piano contro l'evasione fiscale, l'imposta sui grandi valori immobiliari. 7. Patrimoniale sui capitali scudati, cioè quelli fatti rientrare dall'estero con un 5% di tassazione. 8. L'autonomia delle parti sociali. 9. Falso in bilancio e caporalato per correggere diciamo, l'iniquità della manovra, dice il PD, e vuole reintrodurre il reato di falso in bilancio, eliminando le clausole di non punibilità. E infine rendere efficiente la giustizia. Tutti ormai parlano di rendere efficiente la giustizia e infatti il Sole 24 Ore, in un articolo di Donatella Stasio, riporta dell'incontro del nuovo ministro della giustizia Francesco Nitto Palma con il Presidente della Repubblica, che è anche il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, per illustrargli la manovra di... per rendere più efficiente la giustizia, a partire, sembra, speriamo non sia solo un discorso che resta tale, dalla rivoluzione, dal ridisegno della geografia giudiziaria, ovvero con l'eliminazione dei tribunali più piccoli, quelli senza magistrati, con poco lavoro, ma che portano via strutture, denaro e personale. Sempre sul Corriere della Sera, ecco, il Corriere della Sera fa questa scelta che non fa nessun altro giornale, avrete sentito forse nei telegiornali, del terremoto che ha creato una mezz'ora di allarme in America, non di più, perché soprattutto è avvenuto in una zona non sismica, e il Corriere della Sera ci apre con questo tema. È un articolo bello di Ennio Carretto, di cui poi vi darò qualche elemento. Il titolo è: un sisma ferma l'America, la paura dell'11 settembre. Terremoto in Virginia fa evacuare Pentagono, Congresso e Casa Bianca. L'allarme fino a New York. In primo piano. Vi dicevo della scelta del Corriere della Sera di dare ampio spazio e di collegare la notizia del terremoto in America, il terremoto di ieri, con l'11 settembre. Ennio Carretto scrive infatti: un terremoto di magnitudo 5.8 della scala Richter, si intende, con epicentro a sud di Washington, in Virginia, avvertito anche a New York e in molte città dell'East Coast, fino al Canada in America. E fino al Canada. In America, a pochi giorni dall'anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle di 10 anni fa, è tornata la paura di un nuovo 11 settembre. Ecco che continua a pagina 2. La terra ha tremato in Virginia, continua ancora Carretto, e con essa ha tremato tutta l'America. Quella più vicina all'epicentro del sisma, l'America di Washington e New York, si è paralizzata. L'altra America, più distante, ha trattenuto il fiato, chiedendosi cosa accadesse. Nella capitale sono stati evacuati la Casa Bianca, il Congresso, il Pentagono, ogni edificio pubblico. Nella Grande Mela si sono svuotati i grattacieli di Manhattan, persino le torri di controllo dei suoi due aeroporti di Long Island e del New Jersey. E dice ancora: a poco più di 2 settimane dal 10° anniversario delle stragi delle Torri Gemelle, l'America è diventata una fortezza. Per le commemorazioni, a cui insieme con Obama prenderà parte anche George W. Bush, il suo predecessore, a New York, a Washington, nell'intero paese, sono state adottate misure di sicurezza straordinarie. Ma il sisma della Virginia ha ricordato all'improvviso all'America la sua vulnerabilità. Fino al 9 settembre del 2001, un evento passato alla storia con infamia, come l'attacco giapponese a Pearl Harbor, nelle isole delle Hawaii, nel 1941, l'America continentale si era considerata inattaccabile, ma da quel giorno sa di poter essere colpita da un nemico che si nasconde nel suo seno. Si è scolpito nella sua psiche il monito del 2 maggio scorso di Leon Panetta, l'allora direttore della CIA. Bin Laden è morto, ma il terrorismo è vivo. È bastato un terremoto a farle rivivere l'incubo del 2001 e rivedere le laceranti scene delle Torri Gemelle in fiamme, dei corpi che volando dalle finestre si abbattevano sui selciati, di quei fumi neri tossici che avrebbero avvelenato sopravvissuti e soccorritori. L'incubo si è dissolto nel giro di mezz'ora, ma per la prima volta dopo 10 anni l'America, oggi molto più sicura e più protetta, si è sentita esposta a un pericolo mortale. Questo è Ennio Carretto sul Corriere della Sera. Vi aggiungo solo, sempre dal suo articolo, poche cifre, ma che io ora ovviamente non ricordavo e che secondo me sono invece significative. L'11 settembre, scrive Carretto, l'11 settembre del 2001 morirono 2.996 persone, 2.606 alle Torri Gemelle, 246 nei 4 aerei dirottati dai 19 terroristi, 125 al Pentagono. Fu un bilancio più tragico del bombardamento giapponese di Pearl Harbor, 2.042 morti in due ondate di 353 cacciabombardieri levatisi in volo da sei portaerei nel Pacifico. E fu un trauma più profondo perché l'attacco di Pearl Harbor era stato sferrato dall'esterno, mentre quello del 9 settembre fu sferrato da dentro la casa americana. Questo dunque il taglio che il Corriere della Sera ha deciso di dare alla notizia del terremoto avvenuto ieri in Virginia, ed è un taglio originale rispetto agli altri quotidiani. Anche il Corriere della Sera comunque critica in prima pagina, con un articolo di Dario Di Vico, la scelta della CGIL di indire uno sciopero generale il 6 settembre contro la manovra. E infatti sotto l'occhiello la scelta di Camusso, il titolo: il tuffo inutile nel passato remoto. E scrive Di Vico: la decisione della CGIL di indire uno sciopero per il 6 settembre è un tuffo nel passato e si sovrappone al certosino lavoro compiuto dagli esperti del PD per tentare di emendare la manovra in Parlamento. Ecco quindi che, secondo Dario Di Vico, secondo il Corriere della Sera, questo sciopero indetto dal sindacato, che sta subendo per la verità la pressione della sua ala più sinistra, cioè ovvero della FIOM, questa scelta è qualcosa che potrebbe andare a impattare anche con il lavoro, diciamo, di emendamenti che stanno facendo il PD, di cui abbiamo visto l'elenco poco fa. Sulla Stampa vi dico brevemente i due fondi di apertura che sono dedicati alla Libia. Infatti il titolo di apertura a tutta pagina è: preso il bunker di Gheddafi, Tripoli, gli insorti nel covo del colonnello, ma lui non c'è, forse è fuggito dal mare. Questo è il titolo. Ci sono gli articoli di Maurizio Molinari e di Vittorio Emanuele Parsi. Il primo di Molinari dà una prospettiva anche qui nuova, ve ne leggo solo l'inizio. Il titolo è: effetto domino su Assad. Assad è ovviamente il premier siriano. Dopo aver eliminato Osama Bin Laden e rovesciato Muammar Gheddafi, il presidente americano Barack Obama punta alla caduta di Bashar Assad. Questo scrive Molinari sulla Stampa. La Casa Bianca non ama l'espressione presidente di guerra, evita di parlare di missioni compiute e teorizza il ruolo di leadership americana nel mondo, guidando dal sedile posteriore, tra virgolette. Ma ciò non toglie che da Abbottabad a Tripoli fino a Damasco stia... Abbottabad è il luogo in cui è stato in Pakistan, in cui è stato ucciso Bin Laden. Da Abbottabad a Tripoli fino a Damasco stia prendendo forma una dottrina Obama contro despoti e dittatori. Per capire di cosa si tratta, bisogna ascoltare Ben Rhodes. Io non so chi è Ben Rhodes, ora non abbiamo tempo di andare a vedere dentro chi è, però il taglio di questo articolo mi sembra piuttosto interessante. Concluderei questa rassegna stampa su un tema più leggero. Ricorderete che si è chiuso, almeno per certi versi, il caso Strauss-Kahn. E sulla Stampa il Massimo Gramellini, nel suo Buongiorno, intitolato Domenico Straussicani, che poi è un modo di dire cosa sarebbe accaduto se fosse successo in Italia, scrive: la disavventura giudiziaria di Dominique Strauss-Kahn, il banchiere snob dagli impulsi erotici non controllabili, è terminata nel pieno rispetto del pronostico. Con i soldi della moglie, sufficientemente viziata e antipatica per essere affascinata da un maschio simile, l'imputato ha foraggiato avvocati formidabili e indagini spregiudicate, così da riuscire nell'impresa di trasformare la cameriera vittima di una cameriera vittima in una approfittatrice e ottenere un verdetto di archiviazione. Ma nel quarto d'ora di libidine alberghiera ha comunque distrutto la carriera politica di DSK, che poi è Dominique Strauss-Kahn, il quale avrà anche evitato le conseguenze giuridiche dei suoi atti, ma non quelle sociali, le dimissioni dalla presidenza del Fondo Monetario e la rinuncia alla candidatura socialista per la presidenziale francese del 2012. Cosa sarebbe successo in Italia a un suo ipotetico avatar? Esattamente l'opposto, scrive Gramellini nel suo Buongiorno. Quindi l'avatar sarebbe appunto Domenico Straussicani. Esattamente l'opposto. Intanto si sarebbe cementificato alla poltrona, per spirito di servizio, per senso di responsabilità, perché me lo chiede l'Europa. Poi avrebbe gridato al complotto dei poteri forti contro di lui. Si sarebbe presentato alle elezioni e le avrebbe pure vinte, indossando quei panni da perseguitato che portano male ovunque tranne che da noi, dove il lamento del farabutto, purché dotato di charme, fa scattare un moto immediato di solidarietà. In compenso, invece che 3 mesi, il processo per stupro sarebbe andato avanti 20 anni e avremmo visto l'imputato raggiungere la pace dei sensi in tribunale. Con questa ultima lettura io vi saluto e la rassegna stampa domani sarà condotta da qualcun altro. E saluto anche René Zerbini. Perché io ho finito. Quindi insomma hai lavorato troppo in queste mattinate? Esatto. Grazie Lionello, ci ritroveremo più avanti, allora ti lasciamo al tuo lavoro sul Sole 24 Ore, grazie per questa lettura approfondita dei giornali anche questa mattina. A chi si fosse sintonizzato da poco, stanno arrivando i messaggi a Gherardo Colombo e lo invitano a insegnare legalità non tanto o almeno non soltanto nelle scuole ma nei consigli comunali, provinciali, in Parlamento e in Senato. Perché? Perché parleremo proprio di legalità, della mentalità che spinge ad accettare quelle che sono le regole e la mentalità di insofferenza che caratterizza spesso gli italiani verso le regole. Con noi ospite il magistrato, ci sarà Pizzighettone sullo sfondo, in provincia di Cremona, un paesino dove i cittadini si sono mobilitati proprio così, perché per una raccolta firme per cacciare un vigile che dà troppe multe. Questo ha sollevato l'indignazione e la mobilitazione popolare. Con noi ci sarà anche una simpaticissima poliziotta, sovrintendente della Polizia Stradale di Pisa, si chiama Barbara Bonanni, al dono dello scrivere facile e dopo anni sulla strada ha scritto lo scusario dell'automobilista, cioè tutte le scuse che accampano gli automobilisti che lei ferma quando si registra qualche comportamento scorretto. Per i vostri messaggi SMS 349-238-6666, come combattere questa allergia alla legalità è la domanda di oggi, oppure ci chiamerete alle 8.30 all'800-24-00-24. 24 mattino estate con Irene Zerbini. E sono tante le reazioni alla definizione allergia alla legalità. Ancora buongiorno, parleremo di questo tra pochissimo con Gherardo Colombo, ex magistrato. Ha lasciato la magistratura per un compito, chissà, forse ancora più impegnativo, cioè sta insegnando l'educazione alla legalità, come rispettare le regole, come cambiare la mentalità. E lui, Gherardo Colombo, va nelle scuole, incontra tra i 40 e i 50 mila studenti all'anno, anche se qualcuno gli suggerisce dagli SMS ai Radio 24 dovrebbe andare altrove a insegnare la legalità. Parleremo con lui di questo perché a Pizzighettone, in provincia di Cremona, un vigile troppo severo adesso è anche oggetto di una raccolta di firme, deve essere cacciato, deve essere allontanato come chi ha portato disonore. E c'è chi ci segnala un grande senso di solidarietà non verso il vigile ma verso la popolazione che ha raccolto le firme. Io la chiamerei ribellione alla dittatura, ci scrive un ascoltatore. Vi rendete conto come ci siamo ridotti? Qui fra leggi e leggine che hanno il solo scopo di spillarci denaro non si vive più. C'è anche questa sensazione. E sul fronte opposto c'è Beppe che da Guastalla ci segnala che ormai in Italia accettare una sanzione è sentirsi tra i deboli, è sentirsi vittima. Voi come la pensate? Continuate a segnalarci le vostre sensazioni, le vostre opinioni al 349-238-6666, questo è il numero dell'SMS, più tardi vi daremo anche il numero di telefono. Visti da fuori. Se il regista riesce a sedersi, Peter Bescafé si è alzato, si è messo a ballare a questi ritmi colombiani e non riusciamo più ad andare avanti, scusa. Quando hai finito con Shakira, noi avremo una trasmissione da fare, Peter, questa mattina. E Shakira è l'omaggio colombiano che oggi Bescapé e tutta la redazione, Alessandro Longoni in primis, hanno voluto dare a te, Carmen. Hola, buenos días. Hola, Irene, buenos días. Carmen Cordova è la corrispondente in Italia per il settimanale Semagna e grazie a lei oggi parleremo del rapporto tra italiani e Colombia e soprattutto di come i colombiani vedono l'Italia. Da quanti anni sei qui innanzitutto, Carmen? 15 anni. Beh, su più che sufficienti per farti un'idea precisa di questa realtà. Quali sono gli ultimi articoli che hai scritto? Cioè di cosa parlavano? Qual era l'oggetto? La crisi finanziaria. E gli articoli che ti hanno invece appassionato di più in questi ultimi anni, in quest'ultimo periodo di permanenza in Italia, quelli in cui proprio hai imparato qualcosa di nuovo? Beh, descrivere ai colombiani e gli italiani, perché gli italiani nel contesto europeo sono così diversi. E sono diversi in che senso? Dagli altri colleghi dell'Unione, tu dici? Italia sembra più un paese del Sud America, escludendo l'Argentina e il Cile, che sono a sé, è più vicino a un sentire latinoamericano che a un paese ricco e sviluppato dell'Europa. E quindi c'è questo punto di contiguità, questa vicinanza degli italiani anche ai tuoi connazionali, anche nel ai colombiani. Nel bene e nel male. Facci qualche esempio che hai scritto e su cui ti sei soffermata nei tuoi articoli. La poca vocazione degli italiani o di una buona parte degli italiani a rispettare le regole. Andiamo dalle cose importanti alle piccole cose della vita quotidiana. Una semplice fila in banca. Questo è ancora una cosa sorprendente. Cioè, ancora oggi rimani esterrefatta nel vedere chi cerca di scavalcare, chi passa il proprio turno, passa davanti e ancora osservi questo con occhi latinoamericana e dici sembra di essere dalle parti mie, è così che la stai interpretando? Esatto. E come si potrebbe risolvere secondo te questa allergia al rispetto delle regole, che tra l'altro è l'oggetto della nostra trasmissione anche questa mattina? Cioè lo Stato potrebbe far qualcosa? Decisamente, credo mancano delle campagne educative, di formazione, le campagne progresso. All'inizio, quando sono arrivata, mi ha chiamato molto l'attenzione questo fatto che non c'erano nei media e campagne per educare la gente nelle regole della convivenza civile. E in Colombia ci sono? In continuazione, e attraverso tutti i media, i giornali, la televisione, le amministrazioni locali lo fanno. E quindi c'è questa continua campagna anche televisiva in cui si dà in qualche modo il buon esempio, si parte da uno spunto e si invita a riflettere. Quali sono gli oggetti di queste campagne progresso colombiane? Il medio ambiente, per esempio la raccolta differenziata. Ci insegnano attraverso queste campagne come farla a casa, ma questo da tanti anni, non solo recentemente, queste campagne c'erano già prima che io venissi in Italia, cioè 15 anni fa, stiamo parlando 15 anni fa. E a parte la raccolta dei rifiuti, che altro? Come stare insieme agli altri sugli autobus, per esempio. Cosa non fare con la carta che hai in mano e gettarla in un cassonetto invece di gettarla per strada. E qua ti trovi queste signore molto ben vestite, questi signori in giacca e cravatta che con tutta la nonchalance del caso gettano per terra la carta. È una cosa allucinante. E trovi che questa sorta di scuola che fa la televisione pubblica colombiana sia efficace? Decisamente. Io, ti ripeto, sono 15 anni che non ci vivo, ma ogni volta che ci ritorno rimango sorpresa dell'evoluzione del paese. Ricordati che siamo un paese con molti problemi, abbiamo la violenza della guerriglia, la delinquenza comune, abbiamo il narcotraffico, ma mi accorgo della vitalità e del progresso e del cambiamento. Del cambiamento degli abitanti, tra l'altro 45 milioni perché è un grosso paese la Colombia. Gli italiani viaggiano in Colombia, molti perché ci lavorano, altri perché amano il paese per turismo e altri per altre ragioni che abbiamo scoperto recentemente. Quindi c'è la piaga del turismo sessuale degli italiani anche in Colombia. Sì, anche io l'ho scoperto recentemente, in realtà avevo poche notizie sul fatto, ma sì, anche questo, anche gli italiani viaggiano in Colombia approfittando della povertà in certe aree del paese per fare turismo sessuale. E dunque, Carmen, grazie per questa tua fotografia che è stata anche un invito al miglioramento di quello che si fa in Colombia e quello che tu osservi in Italia. Hasta luego. Hasta luego, Irene. Buon lavoro. Carmen Cordova, l'avete sentita, è la corrispondente in Italia per il settimanale colombiano Semania. Oggi ci ha fatto il suo ritratto, la sua fotografia, anche lei rimane ancora esterrefatta per certi comportamenti incivili che noi italiani abbiamo, come avete sentito, con molta noncuranza. E questa è Shakira, uno dei simboli colombiani nel mondo, apprezzata da giovani e non solo. Noi ci ritroveremo tra pochissimo per il nostro incontro con Gherardo Colombo. Visti da fuori, di Irene Zerbini. 24 mattino estate. Vigile, ancora una tramontano, non vede, ne ho già prese sei, mi vuole rovinare lei. Beh, veramente un accorato appello questo di Biagio Antonacci al vigile che non ha proprio il senso della pietà, il senso dell'umano. Ora, sembra una barzelletta oppure così l'oggetto di una canzone destinata a sollevare il sorriso. Invece accade davvero così. Il vigile troppo severo in Italia, paese dove ci si mobilita poco in generale, ci si indigna poco, può diventare addirittura oggetto di una mobilitazione generale, di una petizione per essere condannato all'esilio, o meglio, per essere allontanato. Accade a Pizzighettone, provincia di Cremona. Questo signor vigile prima aveva multato il sindaco del paese precedente dove si trovava, e lui si chiama Michele Aglio e applica la legge, come dicono i suoi abitanti, in maniera impietosa, e ha solo questa colpa, semplicemente di indossare la divisa e prendere questa divisa e questo compito molto molto sul serio. Ora si trova oggetto addirittura di una petizione e anche di un invito a non parlare, perché contattato da noi gli è stato intimato di non rilasciarci interviste. Il sindaco stesso, Carla Bianchi, che è troppo impegnata, visto naturalmente ciò che richiede la gestione di un paese di 6.500 abitanti, per darci del tempo questa mattina, Carla Bianchi, sindaco della Lega, gli ha intimato di non concedere interviste ai giornalisti, vista la delicatezza della situazione. Sto mettendo, ha dichiarato il sindaco, a confronto con il diretto interessato i cittadini multati per arrivare a soluzioni pacifiche da entrambi le parti. E noi abbiamo dormito tranquilli perché non si arriverà alla lotta armata, abbiamo capito da questa dichiarazione, nell'attesa di trovare queste soluzioni pacifiche. Saluto Gherardo Colombo, buongiorno e benvenuto in trasmissione. Buongiorno. Buongiorno. Lei, carissimo signor giudice, o rimane giudice, ex magistrato, è oggetto già di moltissimi messaggi, abbiamo annunciato la sua presenza e la sua attuale attività. Cosa fa da quando ha lasciato la magistratura? Ma faccio un po' di cose, tra le cose che faccio vado anche molto spesso, molto frequentemente nelle scuole a parlare con i ragazzi dalle elementari in su di regole, di rispetto delle regole, della relazione che esiste tra loro e le regole. Gherardo Colombo, le dicono i nostri ascoltatori con un SMS, oltre alle scuole, tenga le sue lezioni sulla legalità nei consigli comunali, provinciali, regionali, in Parlamento e Senato, e chieda ai presenti perché sono in politica. Beh, ma per andare, cioè io vado dove mi invitano e succede qualche volta anche di essere invitato da consigli comunali, mi ricordo. È raro, ma succede delle volte. Adesso chiaramente la sottolineatura era polemica, non sono solo i giovani, certo, ma coloro che oggi occupano le istituzioni hanno questa grande responsabilità a non sapere cosa e perché si debbano rispettare le regole. E però ci sono anche tante sollecitazioni nei nostri SMS a essere più umani nell'applicazione delle regole, dicono tanti ascoltatori, non se ne può più di queste regole, di queste leggi e leggine fatte solo per spillarci denaro. Quindi c'è questa sensazione di leggi lontane dalla gente, qui stiamo parlando naturalmente nello specifico soprattutto della casistica stradale. Ma c'è, secondo lei è davvero allergico alle regole l'italiano, dall'esperienza che si è fatto in giro per le scuole e soprattutto da magistrato? Beh, quando facevo magistrato, ma vede, in Italia ogni anno arrivano alle procure della Repubblica quasi 3 milioni di notizie di reato, cioè di notizie che sarebbe stato commesso un reato. Sono tanti 3 milioni, poi sicuramente non sono tutti reati, però una parte consistente sì. E deve considerare che non tutte le trasgressioni sono reato. Per esempio, quasi tutte le violazioni al codice della strada, se si eccettuano alcune fattispecie come la guida in stato di ebbrezza, queste cose non sono reato. Se noi accumuliamo i reati con le altre trasgressioni, ma ci viene fuori una montagna di, io credo, di miliardi di violazioni all'anno. Ora, io non credo che i cittadini italiani siano particolarmente predisposti a violare le regole. Secondo me, però, hanno uno scarso senso della comunità e in conseguenza tendono a trasgredire alle regole tutte le volte in cui pensano che siano un impedimento al raggiungimento del loro interesse personale, che tante volte contrasta con l'interesse di tutti, loro compresi. E si sente sistematicamente però qua in Italia parlare di giustizia malata, le leggi che sulla carta sono uguali per tutti, poi in realtà privilegerebbero o in qualche modo risparmierebbero i furbetti, i disonesti, gli impuniti. Anche questa sensazione può favorire una certa leggerezza nel rispetto delle regole? Ma secondo me questa è anche, cioè è vero, o è un alibi. La giustizia funziona malissimo, questo è indubbio. Nello stesso tempo, secondo me, si tratta anche di un alibi, nel senso che se tutti ragionano in questo modo dicendo non rispetto le leggi perché le leggi consentono a chi è furbo, a chi è ammanicato, eccetera, di essere eluse, e allora va a finire che nessuno le rispetta. Vi ricordo il numero di SMS 34. No, volevo dire che nel caso in cui le leggi non fossero adeguate, bisognerebbe cambiarle invece che non rispettare. Cambiare, che semplicemente dire me ne lavo le mani, e questo l'alibi. Al numero 349-238-6666 arrivano i vostri messaggi. C'è anche chi, come Andrea da Piacenza, ci scrive che i giudici si sentono in grado di andare in giro a fare la morale ai giovani, è ridicolo. E ci chiediamo, carissimo Andrea, chi se non dei magistrati, chi se non loro potrebbe avere la titolarità non di andare a fare la morale, ma di andare a parlare di alcuni elementi che sono poi il baluardo della convivenza civile, come il rispetto di regole comuni, sentite o meno, criticabili o meno, che possono essere soggette a mutamenti o meno. L'applicazione della regola naturalmente contrasta a volte, visto che la legge è impersonale, la vita è complessa, con quello che è non solo l'interesse del singolo, ma anche il caso singolare in cui ci si trova a vivere. Questo chiaramente genera del fastidio, ma addirittura una raccolta di firme per cacciare colui che fa applicare la legge credo che sia un po' un estremo tutto italiano. Ci arriveremo tra pochissimo, vogliamo sentire anche le vostre opinioni. Potete telefonare all'800 24 00 24. Buongiorno ad Amalia. Pronto? Sì, dica. Buongiorno, buongiorno. Guardi, io non vorrei essere banale, però credo che quando il pesce puzza dalla testa, che cosa ci si aspetta? degli italiani. Cioè lei dice è la classe politica, esatto, che dovrebbe dare l'esempio. Ecco, l'esempio, quando abbiamo un presidente del Consiglio che è il più sfacciato e vergognoso esempio di strumentalizzazione del potere politico a uso e consumo e beneficio dei suoi interessi e quelli di una corte degenere, ecco, e allora lo fa lui, perché non devono farlo gli altri? E Amalia, lei questo che è veramente lei cosa pensa del fatto che comunque questa inosservanza delle regole fosse ben presente nel DNA degli italiani anche prima dei governi di Berlusconi? Questo individualismo, certo, non è un fenomeno degli ultimi 10 anni, per quanto... Ecco, allora possiamo dire che l'italiano è un popolo di servi. Noi siamo cresciuti, l'italiano, diciamo, sempre con dei padroni. Allora cosa fa il servo? Il servo cerca di rubare al padrone. Questa è la genesi, ecco, secondo lei, della scarsa dignità e dello scarso orgoglio che viene di solito con l'osservanza delle regole. Grazie ad Amalia, molto incisiva. Maria Antonietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. Buongiorno, io volevo fare un appunto proprio per la correttezza degli italiani. Io ho parcheggiato la macchina in un parcheggio dalla mattina alle 7 alla sera alle 8, come faccio tutti i giorni. È successo che con questo caldo il paraluce è caduto sul bigliettino non si vedeva. È passato il vigilante e mi ha dato la contravvenzione. Anche io sono passato all'ufficio mobilità, recandomi con il cartellino pagato, con il bigliettino pagato, ho detto guardate, è successo così e così, sì, e quindi non ritengo di dover pagare questa contravvenzione. Mi sono rivolta ai vigili, alla mobilità, eccetera, mi hanno dato torto comunque. Ho capito, ma questo è un caso individuale di un problema, naturalmente, di comprensione con la burocrazia, con le istituzioni, nessuno è perfetto, ci sarà modo forse di fare un ricorso, ma vi inviterei adesso a non raccontare il singolo episodio nel quale poi altri non possano riconoscersi. Senza dubbio la signora, ci auguriamo, Maria Antonietta, avrà la giustizia che si merita. Stiamo cercando di allargare un po' il caso e le osservazioni a quella che è l'osservanza delle regole e delle perché. È un momento, è un passaggio imprescindibile della convivenza civile. Gerardo Colombo ha sentito il riferimento all'ultimo governo, riferimento che tra l'altro torna, non è solo la signora che ha chiamato in diretta, sono tanti anche negli SMS i messaggi che ci dicono: con questi governanti come possiamo pretendere che il senso di legalità si diffonda? Cosa risponde? Ma vede, io credo che in un paese democratico dove ci sono elezioni come il nostro, i governanti sono scelti dai cittadini e i cittadini scelgono i governanti sulla base delle affinità. Quindi io sposterei un po' il discorso dai governanti ai cittadini, nel senso che adesso io non voglio entrare nel tema specifico del comportamento di questo o di quello, ma se si dice che i governanti si comportano in un certo modo e si continuano a votarli, vuol dire che i cittadini sono d'accordo con quel tipo di comportamento, secondo me. Ma io volevo tornare anche un attimo su quel che diceva Andrea, questo andare a fare la morale da parte dei giudici agli studenti. Vede, non si tratta proprio per nulla di andare a fare la morale, a parte il fatto che non capisco perché i giudici non potrebbero parlare di regole con i ragazzi. Ma forse ci vuol parlare lui, l'Andrea che ci ha scritto, i ragazzi. Io non so chi dovrebbe avere la titolarità. No, io credo che proprio questa questione di andare a fare la morale sia, almeno per quel che riguarda il mio punto di vista, proprio male impostata. Io non vado a fare nessuna morale ai ragazzi, vado a parlare con loro, del loro rapporto con le regole. Per esempio, con i ragazzi più grandi, il discorso inizia con una domanda che riguarda la relazione tra la loro personale possibilità di essere felici e le regole, e cioè come... E qual è la domanda che lei fa? È appunto questa. Secondo voi esiste una relazione tra le regole e la vostra personale possibilità di essere felici? Cioè, tra poco ci dirà anche quali sono le risposte che ha collezionato, certo, visto che lei incontra 40-50 mila ragazzi ogni anno. Ne incontro... Sì, 50.000 circa. Più o meno 50.000 ogni anno. E se questi incontri hanno un impatto, naturalmente lo si vedrà anche nella crescita delle generazioni future. Non è l'unico, il magistrato, colui che va nelle scuole a incontrare i ragazzi. Ci vanno i vigili urbani, per esempio, oggi messi alla berlina, e ci vanno tante figure. Per cui, qualunque sia la professione che svolgete, potete tra l'altro chiedere ai presidi di essere accolti, perché questi incontri sul territorio sono sempre molto efficaci. 24 mattino estate. Presto io sarò sindaco, quindi tu per legge vice sindaco. Però ci sono delle cose da mettere a posto subito, tu devi cambiarmelo. Ti ho visto l'altra sera in moto, avevi il casco. Non va bene, Melo. Ho un nome in paese. Lo so, papà. Lasciami finire, tu sei il mio orgoglio. Mi sono sacrificato, mi sono impegnato per te. Tu sei il mio capolavoro, ti ho insegnato tutto, te lo sei dimenticato? No, no, papà. Quando avevi 11 anni ti ho dato le prime lezioni di guida, ti ricordi? Quando ne avevi 12 che ho fatto? Mi ha insegnato a picchiare i compagni della classe che non mi facevano copiare. Bravo, quante volte ti ho detto di non mettere mai il casco? Potrebbero pensare che sei timido. Ti devi fare rispettare. Si comincia dando la precedenza a un incrocio e finisce che ti prendono per ricchione. E si potrebbe anche ridere insieme ad Albanese a questo qualunque mente, un estratto tratto dal film che recentemente ha fatto il ritratto al personaggio che non rispetta le regole, anzi che di regole ne ha, ma all'opposto di quelle che sono diffuse e codificate, sono regole ben precise come non mettere il casco. Potrebbero pensare che sei timido e non far perdere la faccia al padre. Questo era un estratto del dialogo. Noi torniamo ai ragazzi per capire. Ci ha sollevato Gherardo Colombo questa domanda, che è diventata una domanda corale alla quale anche voi state rispondendo. Qual è il rapporto tra la felicità e le regole? Cosa le rispondono i ragazzi a questo interrogativo, Gherardo Colombo? Beh, la risposta generalmente è che le regole influiscono positivamente sulla possibilità, perché la felicità è una cosa molto più complicata, sulla possibilità di essere felici. Però non è così, perché dipende dal contenuto delle regole, cioè ci sono delle regole che ci aiutano e delle regole che invece ci rendono la vita più difficile, questo è indubbio. Lei pensi che nel 1938 in Italia sono entrate in vigore le leggi razziali che penalizzavano in un modo incredibile, che discriminavano pesantissimamente una parte della popolazione. È una sottolineatura molto importante la sua, perché non sempre ciò che è legale è giusto. Esatto. Nel caso delle leggi razziali, per esempio, e non solo lei, anche gli ascoltatori ce lo stanno proponendo come esempio di contrasto tra ciò che è etico e ciò che è legale. Come deve agire un individuo quando si trova di fronte a una legge che avverte come ingiusta? Se violarla non porta danno ad altri, è autorizzato a farlo? Allora, io credo che le leggi, come le dicevo prima, quando si percepiscono ingiuste ed è possibile cambiarle, vadano cambiate e non osservate. In Italia noi abbiamo una Costituzione che garantisce le persone e esiste una strada per fare in modo che siano tolte dall'ordinamento le leggi che contrastano con la Costituzione. La Corte Costituzionale è lì proprio per quello, no? Per espellere dall'ordinamento le leggi che contrastano con la Costituzione. Quindi a rigore il problema non dovrebbe porsi effettivamente nel nostro Paese. Certo è che di fronte alle leggi razziali del 1938 io penso che il compito degli italiani sarebbe stato quello di non osservarle piuttosto che di osservarle. Gherardo Colombo, rimanga con noi. Ora vorrei salutare e ringraziare per il suo tempo anche una poliziotta. Buongiorno a Barbara Bonanni. Buongiorno a voi. O meglio, sovrintendente della Polizia Stradale di Pisa. Ebbene, lei nella sua esperienza ha sempre a che fare con qualcuno che ha appena infranto una regola, anche se è il codice della strada, anche se in molti casi non ha commesso un reato. Da quanti anni fa questo lavoro, Barbara? Io sono quasi a 20 anni ormai. E lei ha scritto, oltre a dei libri molto seri sulle conseguenze degli incidenti stradali, anche qualcosa di un po' brioso quasi, è lo scusario dell'automobilista. Sì, infatti, ho scritto due libri perché dopo il successo del primo ho avuto praticamente altri colleghi si sono offerti di darmi le loro scuse, e quindi poi ne è venuto fuori un secondo libro. E appunto volevo dire questa cosa, seguendo i discorsi che faceva prima il dottor Colombo. Io praticamente inizio il mio libro con una frase che dice che gli italiani vogliono una polizia più efficiente fin quando non li ferma la stradale. E questo secondo me raccoglie un pochino la mentalità dell'italiano, perché tutti vogliono una polizia che sia efficiente, appunto, però poi quando vengono fermati perché magari hanno commesso un'infrazione, allora bisognerebbe chiudere un occhio. Ce ne citi due o tre di queste scuse che sono state accampate dagli automobilisti colti in flagrante da lei, Barbara? Le scuse sono le più svariate, da quelle per la velocità, quelle per il cellulare, per il casco. Sì, ci faccio qualche esempio. Ad esempio, per quanto riguarda la velocità, ho fermato un ragazzo che diceva che andava forte perché in quel momento aveva starnutito e inavvertitamente aveva premuto il piede sull'acceleratore e quindi non si era reso conto di andare così veloce. Oppure abbiamo fermato un ragazzo che correva perché diceva di essere in ritardo per un matrimonio, che era il suo, e quindi doveva correre perché sennò la fidanzata, insomma, aspettava in chiesa invano. Oppure c'è stato il ragazzino che diceva non si metteva il casco perché aveva l'orecchia a sventola. E quindi le orecchie a sventola avrebbero impedito di indossare il casco. Faceva male, certo. Quindi logicamente non lo indossava. Oppure abbiamo fermato sempre i soliti ragazzini con i capelli magari un po' impomatati, che fanno la tipica cresta, e quindi gli avrebbe buttato giù questa cresta e non l'avevano messo per quel motivo. Però anche la signora che era appena uscita dal parrucchiere. Insomma, si trovano sempre scuse quando riguarda se stessi, e poi si è i primi a invocare una polizia più efficiente, maggiori controlli e multe per tutti gli altri. Per quel che riguarda il caso che ci ha ispirato questa discussione oggi, siamo partiti da Pizzighettone in provincia di Cremona, dove i cittadini si sono mobilitati per una raccolta di firme contro un vigile che oggi non può presenziare alla discussione, quindi non può discolparsi dalla colpa di essere troppo severo. Questo vigile Aglio, infatti, ha parlato sì con noi al telefono, ma gli è stato detto dal sindaco di non rilasciare interviste, non ha l'autorizzazione dunque a spiegare cosa sia successo. Lo accusano di essere decisamente troppo agile con quella paletta, e abbiamo sentito a Pizzighettone il perché questo vigile oggi dovrebbe essere allontanato. È stata organizzata una petizione in tutti i locali pubblici perché lui non dovrebbe fare così. Io le racconto un mio caso. Sì. Allora, io ero in pratica, ho fatto una rotonda nuova qua a Pizzighettone dove c'è il passaggio a livello, dove in pratica i tre lati rimangono fermi perché hanno messo un semaforo per non intralciare la rotonda. Io avevo dietro una macchina che in pratica continuava a suonarmi perché doveva girare dentro il Pizzighettone, io ho fatto un pezzo di retro per far passare la persona, ho preso 6 punti di patente e 180 euro di multa. Io non ho attraversato neanche il semaforo rosso. Ha sentito? Lei che è una poliziotta cosa avrebbe fatto? Ma io non posso entrare nel merito dell'operato del mio collega, logicamente io sento la versione dell'utente. Bisogna vedere come sono andate effettivamente poi le cose. Ma questo è un esempio. Appunto, io ripeto, in merito all'operato del mio collega non c'entro e non posso neppure entrarci, però io le posso garantire che di scuse ce ne sono tantissime. Cioè, sarebbe un continuo. Se lui ha fatto questa cosa perché riteneva opportuno farla, io non posso criticare, appunto, ripeto, l'operato del mio collega. Ma è la conferma di quanto lei ci ha detto, cioè si accampano sempre mille scuse perché la legge non è mai troppo severa con gli altri, e con noi invece ci dovrebbero essere degli spazi di interpretazione, della flessibilità e dei margini di manovra, Gherardo Colombo. Quindi, per concludere, vorrei chiedere proprio a lei, dottor Colombo, per uscire da questa situazione così di insofferenza, di allergia alle regole un po' che caratterizza il popolo italiano, anche se lei dice non credo che gli italiani siano peggiori di altri, qual è il messaggio da passare ai ragazzi? Ma io credo che bisognerebbe pensare, riflettere sulla importanza che le regole hanno per noi. Ora, è chiaro che magari non tutte le regole sono adatte, e che magari qualche volta non vengono applicate correttamente, questo può essere. Però noi dobbiamo guardare al complesso e dobbiamo renderci conto che le regole di un paese come il nostro, le regole che si riferiscono alla Costituzione, più delle volte ci difendono, il più delle volte sono dalla nostra parte. E questo noi non lo capiamo. Per esempio la regola del casco, il casco serve a proteggerci la testa, e ci sono tanti ragazzi che la testa ce la rimettono per non aver messo il casco. Ma quindi noi potremmo osservarle o pagare queste multe il più delle volte ed esimerci quando riteniamo che la regola sia persecutoria o troppo punitiva? Fare ricorso, e poi ci sono c'è la procedura, che anche quella dovrebbe garantire le persone quando hanno effettivamente ragione. E l'invito di Gherardo Colombo è molto chiaro: sottoporsi alla legge, pagare anche nel caso di infrazione del codice della strada le multe e poi semmai andare a argomentare nelle sedi deputate le proprie ragioni. Questo fa un paese civile. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato, dispiace non aver avuto la possibilità di dar voce a tutti, sono tanti coloro che chiedevano di parlare. Grazie a Barbara Bonanni, grazie a Gherardo Colombo, a Peter Bescapé in regia e a Alessandro Longoni, coautore di questa trasmissione. Da Irene Zerbini, l'appuntamento è a domani mattina alle 7:15.